Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Allora, oggi parliamo di chi parte, di chi si mette alla guida. Diciamo che adesso parliamo di chi si sta magari accingendo a prendersi qualche giorno di vacanza, anche se quest'anno gli italiani che potranno farlo saranno molto meno del solito, ma naturalmente si prende la macchina anche per tutta un'altra serie di esigenze, per andare al lavoro, per fare dei viaggi, per varie necessità. Perché oggi parliamo di questo? Perché il codice della strada subisce piuttosto frequentemente variazioni e modifiche, e non tutti gli automobilisti si preoccupano di informarsi con costanza e di aggiornarsi su questo argomento. La conoscenza delle regole fissate per la circolazione degli autoveicoli diventa però particolarmente importante proprio con l'arrivo di questa stagione, della stagione estiva, durante la quale molti italiani si mettono in viaggio proprio scegliendo l'automobile per i propri spostamenti. E a giudicare dal fatto che forse in molti accorceranno le ferie e in molti accorceranno anche le tappe, magari sceglieranno tappe italiane quest'anno per trascorrere qualche giorno di vacanza, è più ragionevole pensare appunto che un numero più alto di italiani appunto proprio quest'anno utilizzerà l'autovettura per raggiungere la meta della propria vacanza. Oggi a Salva Danaio, in collaborazione con il Sole 24 Ore che pubblica una guida sul tema, facciamo il punto sulle ultime novità. Dal pagamento delle multe, alle possibilità di ricorso, alle procedure per il recupero dei punti della patente persi, senza dimenticare le novità della patente europea con le indicazioni per chi va all'estero e il rinnovo. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Secondo l'Istat, l'auto è il mezzo di trasporto preferito per oltre il 60% dei viaggi estivi. Voi vi metterete al volante in questa estate 2013? Raccontatecelo anche se volete, scrivendoci al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook, su Twitter, siamo ovunque. In nostri ospiti di oggi: Rossella Cadeo del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Luigi Di Matteo dell'area tecnica dell'ACI, buongiorno dottore Di Matteo. Buongiorno, buongiorno a voi. E naturalmente un gradito ritorno, non perché quello di Rossella non lo sia naturalmente, ma salutiamo con piacere Silvio Scotti, già vice comandante della Polizia Locale di Milano e già comandante della Polizia Locale di Monza, buongiorno. Buongiorno a tutti. Per noi sarà sempre il nostro comandante di Salva Danaio su questi argomenti, naturalmente, e quindi vi ho presentato il nostro parterre di ospiti, vi ho già ricordato le modalità con cui potete intervenire in diretta questa mattina. Adesso un rapido sguardo alla brutta giornata di borsa. È una brutta giornata anche oggi, stiamo davvero ritornando alle vendite piuttosto corpose sui mercati finanziari internazionali. Le preoccupazioni stanno arrivando da qualche giorno a questa parte dalla Cina, non tanto perché c'è questa frenata sulla crescita di questa zona, di quest'area economica, ma perché c'è questo timore per una stretta di liquidità, una crisi di liquidità del sistema bancario. Per la seconda volta consecutiva, era già successo venerdì scorso, la Banca Centrale della Cina è dovuta intervenire rassicurando gli operatori, dicendo che in realtà la liquidità c'è, che non c'è crisi del sistema finanziario locale. Eppure stamattina la borsa cinese è andata di nuovo a picco. Per la borsa di Shanghai calo del 5%, l'Hang Seng di Hong Kong -2,22%. La negatività si è poi spalmata anche a Tokyo, che ha chiuso con un nuovo ribasso dell'1,26%, e naturalmente stamattina le perdite ci sono anche in Europa. Parigi in questo momento è la peggiore, segna -1,40%, Francoforte -0,9%, Londra -0,8%, Milano perde un punto percentuale. Peraltro su Milano pesano anche gli stacchi dei dividendi di alcune società molto importanti, ci sono Enel, A2A, Terna, Exor e Parmalat, e queste sono tra i titoli che perdono di più, anche se in questo momento la peggiore in assoluto è la Popolare di Milano, che segna -7,66%, A2A -7%, Exor -6%, Enel -6%, Terna -4%, GTEC -3%, STM -3%. Andiamo un po' a vedere chi si salva. Stamattina Fiat SPA in rialzo dell'1,27%, dopo che Chrysler ha annunciato un'intesa con i creditori per modificare appunto le condizioni di un superprestito che ha appunto la società, per cui su questa rinegoziazione dei prestiti il titolo è tornato ad essere acquistato. Telecom più 0,8, Unicredit più 0,7, questo è il quadro di borsa di oggi, che direi lasciamo abbastanza rapidamente perché non è che ci piaccia molto. Andiamo invece al tema di oggi, parliamo delle novità del codice della strada, quindi attenzione a chi per vacanza o meno si mette alla guida nei prossimi giorni. Il codice della strada, ormai da decenni, ha abituato gli italiani a continui cambiamenti e novità. Il sistema che disciplina la circolazione stradale è stato ufficialmente riformato da qualche anno, ma sono ancora tanti gli aspetti sui quali è meglio restare aggiornati, perché subiscono costanti innovazioni, oppure quelli che è meglio ripassare perché non si conoscono alla perfezione. Il meccanismo della patente a punti, ad esempio, introdotto ormai da quasi 10 anni, è molto complesso e porta con sé una fitta serie di regole che prevedono decurtazioni per determinate infrazioni oppure bonus per i comportamenti virtuosi. Ma quanti possono dire di conoscerle davvero tutte con precisione e di conoscere le novità? La più recente è contenuta in una nota che chiarisce che per frequentare i corsi di recupero per chi ha perso troppi punti non occorre più aspettare la comunicazione che ne conferma la sottrazione. E pare che entro fine anno dovrebbe diventare obbligatorio il superamento di un esame necessario, oltre alla frequenza di questi corsi, per recuperare i punti persi. C'è poi tutto il capitolo relativo alle multe e ai ricorsi, con normative molto articolate che è bene conoscere se si vuole pagare nel modo corretto e nei tempi giusti una sanzione, ma anche se si vuole cercare di pagare di meno o di contestarne una. Sarebbero ancora molti gli esempi possibili, dalle regole per guidare all'estero alle modalità per il rinnovo della propria patente. È bene verificare di avere tutte le carte in regola, soprattutto in vista dell'estate, quando molti italiani, perlomeno quelli che possono permetterselo, si metteranno in viaggio per raggiungere la meta delle tanto attese vacanze, scegliendo di farlo al volante della propria vettura. Secondo l'Istat, infatti, l'auto è il mezzo di trasporto preferito per oltre il 60% dei viaggi estivi. Eccoci qua, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure potete scriverci al 349-238-6666 ed è già arrivato un numero enorme di messaggi. Riccardo ci scrive: certo, in auto, Padova, Parigi, Normandia e ritorno, indipendenti, liberi, e si risparmia prenotando online gli hotel. Marina dalla provincia di Belluno: per le ferie uso il camper, meraviglioso il viaggiar abitando, meta per agosto, Abruzzo o Svizzera, quindi o da una parte o dall'altra, due alternative molto differenti, però insomma anche in questo caso si scelgono le quattro ruote. Si va in Portogallo in due per 15 giorni, si va in macchina, ci scrive Angela da Pisa, si possono visitare più posti, i tempi dipendono solo da noi e visti i prezzi dei voli si risparmia, conti alla mano, conviene di più rispetto ad una settimana in Italia. Detto questo, per la verità, no, la nostra idea di stamattina, Rossella, non è tanto di farci raccontare, ma naturalmente poi leggiamo volentieri ugualmente questi messaggi, le mete scelte e quali mete saranno raggiunte con l'auto, ma soprattutto le accortezze da adottare per chi si mette in viaggio appunto utilizzando la vettura, perché il codice della strada anche quest'anno ci presenta delle novità. Sì, anche quest'anno ricordiamo tra l'altro che il codice, l'ultima versione, l'introduzione della patente a punti, compie 10 anni, quindi quest'anno chi non ha mai commesso violazioni che implichino una decurtazione di punti può raggiungere il punteggio massimo previsto appunto dalla patente a punti, cioè 30 punti. E sul codice della strada sì, i lavori sono sempre in corso, nel senso che o ci sono delle novità portate da determinate normative o ci sono delle applicazioni, cioè l'applicazione di novità introdotte dalle versioni che si succedono del codice della strada. Una delle ultime è ad esempio, ma questa è addirittura d'arrivo, l'esame per i corsi di guida che permettono il recupero dei punti persi. Era previsto dalla legge 120 del 2010 e dovrebbe servire soprattutto a rendere la frequentazione di questi corsi più efficace. Mm-hmm. Perché sennò non lo è molto. No, nel senso che questi corsi vengono frequentati, ma ma sì, alla fine non c'è nessun esame, per cui può anche essere che questi se sei uno punti, perde 9 punti, molti punti, perché comunque ha una guida allegra, non serve nessun corso per responsabilizzare la persona, dire magari insomma forse una formalità, poi magari sentiremo anche i nostri ospiti cosa ne pensano. Detto questo, le altre novità novità riguardano poi il derivano da questo disegno di legge semplificazione, che però è ancora al vaglio del Parlamento, e riguardano in particolare i passaggi di proprietà, la perdita di possesso. Sono novità semplificative, novità procedurali. Mm-hmm. Anche se in realtà poi ho letto nel pezzo che ha scritto in apertura sulla guida di oggi, il codice della strada, appunto Maurizio Caprino, che soprattutto sulla questione del passaggio di proprietà la semplificazione non è ottimale, poi magari spiegheremo perché. Allora andiamo subito al nostro comandante preferito, Guido Scotti, appunto, che sulla guida di oggi firma il pezzo riguardante appunto la notifica dei verbali di violazione al codice della strada, quindi nella sostanza, comandante Scotti, l'arrivo delle multe, e poi firma anche i pezzi relativi a quanto si paga a seconda chiaramente della infrazione commessa. La multa è minima se pagata entro 60 giorni, non perché ci riconoscano qualche sconto, ma naturalmente se non facciamo ricorsi e paghiamo al volo. Ma è vero che si sta pensando appunto ad una decurtazione appunto della multa stessa se si paga in tempi molto brevi, di circa il 20%? Sì, esatto, si sta pensando ad una modifica di questo tipo, è già stata esaminata presso la Commissione della Camera dei Deputati, e si prevede che nel caso in cui si paghi il verbale contestato o notificato entro 5 giorni si possa arrivare ad un abbattimento del 20%. È una novità assoluta. Teniamo conto che all'attualità, quando noi paghiamo nel limite dei 60 giorni, paghiamo sempre il minimo di legge, e questo tengo anche a sottolinearlo, perché molte volte i cittadini chiedono una sanzione inferiore rispetto a quanto prevista nel verbale. In realtà la cifra che viene scritta nel verbale è già il minimo di legge. Ecco, quindi per esempio il famoso divieto di sosta, che mi sembra ammonti a 30 era 8 euro, non mi ricordo quant'è la sanzione appunto per questo tipo di infrazione. Siamo a 41 adesso. Certo, abbiamo fatto un ritocchino verso l'alto. Stavo chiedendole, cioè arriva qualcuno che chiede addirittura lo sconto perché viene a pagare rapidamente? Sì, perché si è convinti che ci sia la possibilità di trattare sulla cifra che viene indicata nel verbale. In realtà non è così, perché la gente che contesta la violazione e che la rileva è obbligato per legge a inserire il minimo previsto. Questa non l'avevo sentita da nessuna parte, perlomeno io non ne prendo moltissimo, devo dire la verità. L'ultima che mi è toccata è stata proprio per un divieto, ma sono andata a pagarla, non mi è venuto in mente di chiedere anche lo sconto. Ci si prova anche da questo punto di vista. Comandante Scotti, le volevo chiedere una cosa, perché mi è stata sollevata da un ascoltatore, da Riccardo, che dice: ho provato a vedere, per quello che riguarda i punti della mia patente, online, perché c'è un portale che è proprio deputato a, una volta inseriti i dati, farci monitorare la nostra posizione. Lui dice che non si riesce ad inserire il numero della patente, non c'è un numero di telefono a cui rivolgersi. Qual è questo portale? Il portale esiste, comunque esiste anche un numero verde che adesso non ho sotto mano, ma sì, adesso lo cerchiamo durante la pausa, c'è la Rossella, adesso ce lo facciamo dire. Dove è possibile ottenere il saldo del proprio punteggio. Sì, dobbiamo anche tenere presente tuttavia che laddove si sia subita una decurtazione di punti, questa non è immediata, ci sono tutta una serie di tempistiche che sono da rispettare. Una volta che il verbale è stato definito, e cioè si è esaurita la tempistica per i ricorsi, oppure si è avuta la decisione definitiva sui ricorsi, oppure si è pagato il verbale rinunciando quindi a proporre ricorso, ci sono 30 giorni di tempo per inserire questa decurtazione, quindi non è proprio immediata. Certo, per cui bisogna monitorare la nostra situazione anche un po' nel tempo, non è che se abbiamo commesso un'infrazione nel giro di 2 giorni magari pensiamo di averla scampata, in realtà controlliamo magari qualche settimana dopo, perché la sorpresa la potremmo trovare. Rossella ha trovato intanto i riferimenti a cui facevamo riferimento noi poco fa. Sì, li abbiamo pubblicati anche sulla guida di oggi, il numero comunque è 8487 82 78. 112. È un numero che però non è gratuito e si può fare solo da telefono fisso. Eccoci qua, è un altro bel balzellino perché naturalmente non potevamo farcelo mancare. Allora 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Faccio fare una battuta a Luigi Di Matteo, poi magari con lui con il primo approfondimento andremo direttamente nella seconda parte del programma, e gli volevo chiedere un commento rispetto alle nostre considerazioni che abbiamo fatto con Rossella Cadeo sul tema dell'esame per ripristinare il nostro punteggio della patente. Ma è utile, insomma, secondo lei questa iniziativa o puramente una formalità? No, comunque è utile, perché sostenere l'esame dà un maggiore interesse alla durata del corso. Il corso in realtà è un corso di 12 ore e attualmente non c'è una prova d'esame, per cui sostenere un esame rende, diciamo, la frequenza più interessante e più fruttuosa. Va bene, insomma. Volevo dire che il portale a cui facevate riferimento, sì, è sul sito www.ilportaledellautomobilista.it ed è un portale del Ministero delle Infrastrutture sul quale, digitando il numero della patente, si può ottenere la consultazione del numero di punti. Allora, chissà, Riccardo, che cosa è successo che non appunto gli permette di inserire il numero della patente. Magari c'è un piccolo blocco temporaneo, Riccardo. Magari in molti in questo momento staranno cercando di verificare la propria posizione, quindi potrebbe essere solamente un piccolo disagio temporaneo. Salva Danaio. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ecco, 100 all'ora sì, ma l'importante è che li facciate in autostrada e non per esempio nei centri urbani. Prima regola, quindi controllo della velocità, se no attenzione alle infrazioni che commettete, alle multe che arrivano e anche alla decurtazione dei punti della patente. Sono questi i temi di cui parliamo questa mattina, perché così fare un po' un piccolo vademecum di tutte le attenzioni a cui dobbiamo che dobbiamo tenere bene a mente prima di partire per un viaggio, quando ci mettiamo alla guida, appunto, è utile soprattutto in questo periodo in cui magari molti italiani si metteranno proprio alla guida della propria auto per andare in vacanza, visto che le mete sono state un po' ridimensionate. Se si sceglie la meta italiana, è chiaro che magari preferibilmente, soprattutto se si ha famiglia, si sceglie l'auto. E allora attenzione alle novità che arrivano, alle novità che riguardano il codice della strada, alle novità che riguardano anche la patente. Volevo fare una piccola precisazione sul fatto del portale dell'automobilista, perché anche altri ascoltatori ci stanno segnalando che collegandosi non funziona in maniera ottimale. Leggo, lo scrive anche il Sole 24 Ore questa mattina, che bisogna registrarsi al sito prima di inserire le informazioni relative, i dati relativi alla propria patente, quindi verificare la propria situazione. Quindi magari verificate appunto se avete fatto l'iscrizione o meno al sito, quindi forse è questo il motivo per cui magari non si riesce ad accedere al portale stesso completamente. In alternativa si può chiamare il numero 848 782 782. Raccontateci come va, altrimenti lo segnaliamo anche al Ministero delle Infrastrutture. Allora, volevo sentire Luigi Di Matteo dell'area tecnica dell'ACI, prima ho fatto parlare pochissimo, volevo chiederle per il 2013 quali sono le novità relative appunto alla patente, quali sono le nuove categorie di patenti delle quali dobbiamo prendere coscienza. Di Matteo. Le categorie di nuove patenti passano da 9 a 15, quindi dal 19 gennaio 2013 si è verificata una vera e propria rivoluzione nel mondo delle patenti. La novità principale però riguarda i ciclomotori, perché il vecchio certificato di idoneità alla guida del ciclomotore viene sostituito dalla patente AM, quindi il vecchio patentino diventa una patente che può essere conseguita ancora a 14 anni, mentre però attenzione, perché all'estero un ciclomotore non si può guidare se non a 16 anni. Quindi chi va all'estero si ricordi che il ciclomotore, anche in possesso della patente AM in Italia, deve essere guidato a 16 anni. Che cosa cambia in realtà? Che la patente AM funziona proprio come una patente dell'auto, quindi anche soggetta a perdita di punti, anche in questo caso. Senta, per quello che riguarda invece la questione della patente europea, come ci stiamo preparando a questo appuntamento, a questo avvento, visto che anche l'Italia sta sostanzialmente ottemperando alle ultime direttive europee su questo argomento? Proprio attraverso questi decreti che recepiscono le direttive europee. Le dicevo precedentemente che il panorama delle patenti è completamente cambiato. Esistono per esempio la patente prima per guidare i motocicli a 16 anni era la patente A1, adesso esiste anche una patente A2 per guidare le moto fino a 35 kW, esistono per esempio delle patenti per guidare le microcar, mentre precedentemente la microcar poteva essere guidata solamente con il patentino, oggi per guidare una microcar di massa superiore a 400 kg è necessario conseguire una patente specifica e conseguirla a 16 anni, quindi ci siamo allineando con le direttive dell'Unione Europea. Certo, quindi diciamo che intanto si adeguano immediatamente tutti coloro che devono prendere per la prima volta la patente, per chi invece già ce l'ha come tutti noi. Dottore Di Matteo, a me scade per esempio per la seconda volta, quindi non devo fare il secondo rinnovo, fra 4 anni. In quella occasione che tipo di documento mi verrà rilasciato? In quell'occasione, per chi già possiede queste patenti, in realtà cambia. No, per chi possiede il vecchio tipo di patente, che cosa cambia per chi possiede il vecchio tipo di patente? Per chi possiede il vecchio tipo di patente non cambia niente. In realtà l'esame sostenuto è quello che, diciamo, il vecchio tipo di patente rimane tal quale. Le nuove normative riguardano chi si accinge a prendere la patente. Peraltro, chi si accinge a prendere la patente avrà anche la sorpresa che la scadenza della patente è considerata in concomitanza con il proprio compleanno. Ero convinta che mi venisse rilasciato un documento diverso, quantomeno nel formato. Non viene rilasciato il tesserino di plastica? Sì, intendevo. Nel formato sì, per quanto riguarda poi la sostanza, la possibilità di guidare un certo numero, un certo tipo di veicoli, lì non c'è molto. Perfetto, quindi questo almeno lo sappiamo per chi magari si accinge a fare questa sostituzione proprio in questi mesi, magari non sa che ha appunto dovrà avere rilasciato il tesserino di plastica. Sì, dalla fine dell'estate cominceranno a essere rilasciati questi nuovi tesserini, questa nuova card formato tessera, secondo la patente europea, secondo il nuovo formato della patente europea, e per arrivare a scadenza del rinnovo di tutte del cambiamento di tutte le patenti al rinnovo entro il 2023, quindi è un processo graduale. Certamente ci vuole un po'. Allora sentiamo già qualche ascoltatore. Sì, giustamente, allora ancora sul portale dell'automobilista un ascoltatore mi scrive: mi sono registrato, non funziona, e lei lo sa benissimo, come se io avessi detto prima una cosa cercando di nascondere. Guardi, non mi sono registrata, non l'ho mai utilizzato, magari oggi vado a fare la verifica anche io e troverò questa sorpresa, non so se funzioni o meno, visto che non ho mai avuto il piacere appunto di inserire i miei dati. Lo farò e quindi verificheremo. Marco Lombardo invece giustamente mi suggerisce di precisare che quando ho dato prima il numero del servizio al quale rivolgersi appunto per avere un profilo della propria situazione, non è un numero verde, giustamente, perché anche Rossella Cadeo diceva è a pagamento, è l'848 782 782. Sentiamo Atem da Bologna, che è il primo ascoltatore che interviene oggi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo parlare di questa CicoCiqua che è uscita praticamente nel 2008 e scade nel 2014, e ci troviamo noi camionisti tutti quanti che dobbiamo andare a scuola guida a fare questi corsi qua. Ma io non vedo questi corsi qua cosa servono. Praticamente non servono niente, secondo me. Poi c'è gente che sono andati a farli, si annoiano, sempre la stessa cosa, che secondo me sono cose da raccogliere i soldi, va. Allora, è un disagio sì. Per noi, e poi quando uno è sulla strada dopo 10 anni, cosa ha bisogno di andare a fare i corsi? No, facciamo tutti quanti le macchine e le moto. Allora, mi faccia capire, Atem, praticamente lei come autotrasportatore ha l'obbligo di fare questo corso una volta all'anno, quanto dura, quanto le costa? Perché il tema poi no, è anche... non è una volta all'anno, il CicoC praticamente è uscito nel 2008, scade nel 2014, che sono 6 anni, e poi dopo non so la scadenza quando ci vuole, 5-10 anni, non ho capito, perché è una cosa nuova per noi. Questa. Sentiamo un po' gli ossi esperti, perché per la verità adesso non ho capito bene neanche io. Non lo so, dottor Di Matteo, lei sa qualcosa in più rispetto a questo obbligo a cui sarebbero chiamati appunto gli autotrasportatori? È un obbligo che investe gli autotrasportatori o anche degli automobilisti di tipo professionale. Si tratta di un certificato di qualificazione del conducente che viene rilasciato dopo un corso di aggiornamento. questo è abbastanza in linea con quello che dicevamo prima di allineare la normativa italiana a quella europea. In realtà, come lamenta l'ascoltatore, il corso, chi lavora per strada lo vive in maniera un po' noiosa, però è un obbligo che ci discende proprio dall'aggiornamento della nostra normativa all'ambito europeo. E va bene, quindi insomma bisogna farlo, poi capisco effettivamente che magari... Peraltro ha un costo. Quanto costa? Dipende un po' dalle varie scuole guida, non c'è un prezzo. Quindi c'è un mercato anche lì, non c'è uno standard. Intanto Vittorio mi viene incontro dalla provincia di Monza e Brianza e scrive: il portale funziona benissimo, anzi ti dà anche la scadenza della patente, la scadenza del bollo sull'auto di proprietà. Meno male, Vittorio, insomma, che almeno a qualcuno funzioni, ma è chiaro che ci possa essere stato qualche intoppo tecnologico. 800 24 0024 è il numero verde per le vostre domande. Volevo leggere al comandante Scotti una considerazione fatta da Giuseppe da Carrara, che ci scrive: alcuni comandi di polizia municipale fanno pagare al conducente le spese di notifica del verbale che per legge spettano al proprietario del veicolo. È giusto? Quindi la notifica del verbale, appunto, della sanzione combinata, quindi dell'infrazione commessa, a chi spettano? A chi spetta sostenerle, comandante? In realtà noi abbiamo tre tipi di spese per un verbale. Allora, la prima spesa ovviamente è il minimo della sanzione, ne abbiamo già parlato. Poi la seconda sono le spese di notificazione, cioè il costo della raccomandata o piuttosto della consegna attraverso messo notificatore, e inoltre le spese di accertamento. Queste spettano, no, a colui che viene indicato come responsabile della circolazione. Quindi è chiaro che se il conducente viene immediatamente identificato, gli viene contestato direttamente il verbale e non c'è bisogno di alcuna notificazione successiva, mentre la notificazione per esempio è obbligatoria nel caso cosiddetto divieto di sosta, piuttosto che nel caso di eccesso di velocità con fotografia dove non c'è stata la contestazione immediata. In questo caso chiaramente non è proprio il proprietario del veicolo ma l'intestatario della carta di circolazione che ahimè subisce quest'onere. Allora l'ultima prima della prossima pausa, l'ultimo messaggio che leggo è quello di Andrea da Carpi: non avendo mai preso multe, quindi da luglio avrò 30 punti sulla mia patente, comandante Scotti. Teoricamente il miglior conducente del mondo dovrebbe trovarsi questa piacevole sorpresa. Precisamente, avrà 30 punti, che significa che avrà un patrimonio maggiore nel caso speriamo di sanzioni. Parte da una soglia più alta. Intanto, ancora sulla questione che abbiamo sollevato stamattina, il funzionamento del portale dell'automobilista, vi assicuro che funziona, perché molti ascoltatori appunto lo stanno testando per me in questo momento. Michele ci scrive: funziona benissimo, non c'è solo la patente, ci sono molte più informazioni, bisogna registrarsi. Cristiano da Cagliari: funziona, ho appena scoperto che ho 28 punti. E un altro si lamenta, non si firma e dice: ditelo chiaramente, funziona solo per le patenti nuove. E un altro che scrive proprio in questo istante: utilizzo il portale, funziona perfettamente, dopo l'iscrizione bisogna aspettare qualche istante che il sistema recuperi i dati personali. Quindi insomma qua mi pare che tutto vada bene, e chi è che si lamenta è stato probabilmente un conducente sfortunato. Salva Danaio. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Sappiamo bene, da qualche settimana, da qualche mese a questa parte, mio Marco Lombardo, mio assistente, l'assistente al programma di Salva Danaio, si sbizzarrisce con le colonne sonore 100 all'ora, ma naturalmente non dimenticate di non andare a questa velocità nei centri urbani e in tante altre zone. I limiti da rispettare appunto sono molto stringenti, state attenti, perché poi chiaramente mandate in pericolo la vostra vita, quella delle altre persone, e soprattutto bruciate i punti della patente se venite pizzicati. E allora poi come si ripristina questo punteggio? Se siete stati dei conducenti integerrimi, da luglio potrete avere addirittura 30 punti sulla patente. In realtà, in molti si chiedono come mai avete fatto questo conteggio. Rossella, rispieghiamolo, perché sì, la patente a punti a 10 anni. A 10 anni. Partiva da 20. Partiva da 20, ogni due anni si hanno ogni due anni in assenza di infrazioni, ecco, con decurtazione si hanno due punti in più. Quindi 10 anni. Se siamo stati bravi dovremmo avere appunto questo punteggio pieno. Sì. Ricordiamo anche che i 20 punti si ripristinano anche nel caso un conducente abbia compiuto un'infrazione con tagli. Se per due anni non commette nessuna infrazione di questo tipo, ritorna illibato come era in precedenza. Alla quota di 20 punti. Silvano dalla provincia di Bergamo, buongiorno, un autotrasportatore. Buongiorno, niente, io volevo dire 100 all'ora è poco, perché a me è stato contestato una fotografia su una statale con un auto articolato, a 104,8 all'ora. E nel momento in cui il tachigrafo segnava la velocità di 73 all'ora. Io ho fatto ricorso perché è una cosa fuori dal normale che con un auto articolato si vada a 105 all'ora. Come è andato? Abbiamo dei limitatori a 89 all'ora massimo, no? Giudice di pace mi ha detto che del mio disco e delle mie cose che io posso documentare io non gli interessa niente, mi ha condannato a pagare. Quanto le costa questo scherzetto, Silvano? Questo scherzetto è costato 3 punti e 400, 380, 400 cose. Ecco, cioè, però io insomma, dico, potevano. Statale, certo, è impossibile che andasse a quella velocità, fossero anche solo 20 euro. Lei dice, certo. Il 73 all'ora, il giudice di pace dice: voi camionisti ne fate di tutti i colori. Praticamente mi ha dato del delinquente, io che sono quasi 40 anni che guido. E sicuramente ho passato i 5 milioni di chilometri, dico 5 milioni di chilometri. Silvano, sentiamo cosa ne pensa il comandante Scotti. Questo è un problema vecchio, le modalità appunto di rilevazione delle infrazioni, quante volte ne abbiamo parlato anche con lei, però Silvano giustamente dice con quel mezzo era proprio matematicamente impossibile che io potessi raggiungere quella velocità. Come è stato possibile che il rilevatore la rilevasse? Comandante Scotti? Come qualunque mezzo misurazione, anche il rilevatore può sbagliare, ci sono tutta una serie di verifiche che si possono fare. A me pare che tutto sommato la registrazione della velocità sul cronotachigrafo sia tutt'altro che irrilevante e che comunque si debba in un modo o nell'altro spiegare nella motivazione della sentenza come mai esiste questa discrasia. Teniamo presente che una volta avuta la sentenza del giudice di pace è possibile comunque ricorrere in appello e in un caso del genere, fatto salvo che dovrei esaminare tutti gli atti e fatto salvo che non faccio l'avvocato, credo che comunque ci siano gli estremi per un ricorso in appello, magari il giudice togato verifica con maggiore attenzione questa problematica. Allora, noi eravamo partiti con questa trasmissione con l'obiettivo di dare qualche indicazione per monitorare appunto anche la propria situazione nel rapporto con la patente appunto ai nostri ascoltatori, visto che molti stanno partendo per le vacanze, lo faranno in macchina quest'anno, poi alla fine, come spesso capita con Salvadanaio, le domande che arrivano da parte degli ascoltatori, che noi vogliamo accontentare, sono della natura più articolata, però ecco, prima di concludere in realtà con i miei ospiti vorrei fare proprio questo, dare qualche suggerimento utile a chi quest'anno partirà con l'auto e magari non ha, magari mette a punto la sua mobile, però non mette a punto la patente. Quindi, dottor Di Matteo, qualche suggerimento ai nostri ascoltatori dal punto di vista dell'ACI? Dal punto di vista dell'ACI bisogna prima di tutto tenere una macchina in un buono stato di manutenzione. Il periodo delle vacanze è il periodo del maggior uso dell'automobile. Bisogna controllare prima di tutto la pressione degli pneumatici, questo anche in virtù di un risparmio in termini economici. Ma invece il conducente, per quello che riguarda la sua situazione, che cosa deve fare? Il conducente deve cercare di guidare nelle migliori condizioni psicofisiche. Non assumere alcol, fare attenzione per esempio all'assunzione di farmaci, perché ci sono dei farmaci che creano delle situazioni di sonnolenza. Un'altra cosa da non fare è non distrarsi alla guida. La distrazione sta diventando uno dei principali motivi di certo, soprattutto in ambito urbano. Infatti, anche perché ci si innervosisce. Guardi, io ieri pomeriggio tornavo da Ancona, mi sono imbarcata dei miei soliti 500 chilometri che faccio almeno una volta al mese. Effettivamente, anche poi a giudicare, come quando si guarda la guida degli altri che ci sembra pessima, ci innervosiamo un po' tutti, effettivamente scatta subito la pulce al naso in queste circostanze. Comandante Scotti, mi dà anche lei qualche suggerimento per gli automobilisti che partiranno prossimamente, appunto, ma non dico tanto per controllare l'auto, quanto per avere, come dire, un approccio sereno qualora dovessero imbattersi in qualche pattuglia che ferma l'auto? Ma dunque, prima di tutto io direi che la cosa, diciamo così, la cosa migliore da fare è considerare il viaggio una parte della vacanza, cioè quindi partire rilassati, ovviamente attenti perché si tratta comunque di un'attività pericolosa, e laddove si imbatta una pattuglia, massima collaborazione, anche perché la Polizia Stradale lavora per la nostra sicurezza. Teniamolo presente. Molto bene, allora poi per tutti i suggerimenti che non siamo riusciti a dare, questa mattina c'è il codice della strada, la guida del Sole 24 ore. Tra l'altro, Rossella, ti comunico che lì fuori c'è Maurizio Caprino, che era molto geloso oggi, che non è stato invitato a Salvadanaio, ma in realtà, Maurizio, abbiamo citato i tuoi pezzi ripetutamente, per cui sei stata una presenza latente a Salvadanaio, ma c'eri anche con noi. Grazie a Rossella Cadeo, Luigi Di Matteo, Silvio Scotti per essere stati con noi a Salvadanaio. Ritorniamo domani con un nuovo martedì del lavoro, visto che il ministro Giovannini si appresta a varare questo piano appunto per rilanciare l'occupazione soprattutto giovanile nel nostro paese. Vedremo che cosa bolle in pentola. Intanto a tutti buona giornata.